cacere. Le ho versate tutte, ora non ne ho più. Datemi una voce per gridare ancora, che è stata colpa mia se lei è andata via. Sappia dire che ritornerà. Oh, datemi degli occhi per vedere ancora, per dare l'ultimo addio a chi non so scordare. Versate tutte, ora non ne ho più.